Radio 3 Lezioni di musica. Alessandro Solbiati, Frühlingstraum e Der Leiermann di Franz Schubert. Buongiorno, sono Alessandro Solbiati e siamo arrivati alla sesta puntata di lezioni di musica dedicata al Winterreise di Franz Schubert. Sesta e ahimè ultima, perché mi dispiace un po' abbandonarlo. Infatti cerco di far stare nella puntata di oggi ben due leader, perché non volevo rinunciare a questa presentazione, quindi cercherò di essere sintetico in ciò che dico. Allora, il primo dei due è il meraviglioso Frühlingstraum, cioè sogno di primavera. Ho spesso detto nelle precedenti puntate che molti dei leader si basano, per quanto riguarda il testo, su una contrapposizione a volte violenta, a volte netta, a volte no, tra passato e presente nel viaggio del viandante. Il viandante è, durante il suo viaggio, in un ambiente ostile, invernale, freddo, cupo, buio, e invece ogni tanto tutto ciò oscilla con il ricordo di quando lo stesso ambiente era lieto, di quando l'amata era anche amante, con un passato, insomma, definitivamente sparito e che comunque contrappunta il presente. In questo caso siamo di fronte a un'ennesima variante, e cioè, adesso vi leggerò tra poco il testo e vedrete che ci sono in realtà tre elementi e non due, non c'è soltanto il passato e il presente, ma c'è un terzo elemento, un elemento C, un elemento che cerca una conciliazione. Comunque, prima vi leggo il testo e, come ho sempre fatto nelle precedenti puntate, mi fermo un attimo tra una strofa e l'altra per segnalarvi la divisione interna. Sognavo di fiori variopinti, così come fioriscono in maggio. Sognavo di verdi prati, di lieto cinguettio. E al cantare del gallo mi svegliai, faceva freddo, era buio, sul tetto gracchiavano i corvi. Ma i vetri delle finestre, chi mai dipinse queste foglie? Ridete, vero, del sognatore che ha visto fiori d'inverno? Sognavo l'amore ricambiato di una bella fanciulla, cuore e baci, gioia e felicità. E al cantare del gallo si svegliò il mio cuore. Ora siedo qui solo e ripenso al sogno. Di nuovo chiudo gli occhi, ancora batte forte il cuore. Quando rinverdiranno le foglie alla finestra? Quando stringerò tra le mie braccia il mio amore? La lettura che Schubert fa di questo testo sottolinea, enfatizza, moltiplica per mille, credo, la contrapposizione tra le strofe. Ho sempre parlato del fatto che il centro, il cuore del rapporto di Schubert con un testo è quello di individuare un centro di interesse e di costruire la forma su quello. In questo caso cosa succede? Che la prima strofa è particolarmente primaverile, particolarmente serena, sognante, si parla di fiori variopinti, di maggio, di verdi prati, di un cinguettio. La seconda è terribilmente dura, perché non è soltanto il risveglio al canto del gallo, e attenzione, il canto del gallo è un canto, ma di solito è estremamente aspro, ma soprattutto, mentre l'ultimo verso della prima strofa parlava di cinguettio lieto, il quarto verso della seconda dice: sul tetto gracchiavano i corvi, e sentiremo una conseguenza musicale abbastanza netta. Ma c'è la terza strofa, che è, come dire, una sorta di intermediazione, perché siamo nel presente, cioè fa freddo, ma nel sogno, se volete nel delirio, soprattutto nell'illusione di voler comunque cogliere qualche cosa di sereno, qual è l'intermediazione? È una sorta di figura retorica. Ai vetri della finestra chi mai dipinse queste foglie? Cos'è questo dipinto? Ovviamente è il ghiaccio che disegna delle filigrane sul vetro. E queste filigrane sono le filigrane del freddo, del ghiaccio, ma disegnano delle foglie. E infatti poi se ne accorge, dice: ridete del sognatore che ha visto fiori d'inverno. Ma questi fiori d'inverno sono una specie di salvezza in questo lead, sono il terzo elemento. Le tre strofe successive hanno una simmetria che Schubert sottolinea forse al di là di quanto non fosse davvero, insomma, in parte c'è, in parte l'ha voluta lui, cioè la quarta strofa parallela alla prima, come si dice, simmetrica alla prima. La prima parlava di fiori variopinti, la quarta dice: sognavo l'amore ricambiato di una bella fanciulla, quindi quello che era nella natura, quello che era la serenità nella natura, adesso è la serenità del ricordo dell'amore. La seconda strofa parlava del canto del gallo che lo risveglia ed è freddo e buio, e effettivamente la quinta strofa, qui il riferimento è diretto, dice: al cantare del gallo si svegliò il mio cuore, ora siedo qui solo. Qui la simmetria è molto forte. La sesta strofa richiama la terza perché dice: di nuovo chiudo gli occhi, ancora batte forte il cuore, ogni volta che si chiudono gli occhi si sogna, e dice: quando rinverdiranno le foglie alla finestra, ed ecco il riferimento al quel presente in cui il ghiaccio ha comunque disegnato delle foglie sui vetri. Cosa ne succede musicalmente? Succede che in questo caso c'è una nettissima contrapposizione, sono tre veri e propri temi quelli che vengono contrapposti. Si parlava ieri del Lindenbaum, in cui in realtà viceversa c'è un solo tema che cambia continuamente aspetto, forma, modo e si piega a mille varianti. Qui viceversa sono tre elementi motivici completamente diversi e contrapposti che poi verranno interamente ripetuti. Ascoltiamo le prime 14 battute. Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Come non leggere l'infinita innocenza, l'infinita, la primavera come stato di purezza originaria, questo Schubert che a volte ci porta anche nella drammaticità di Lavinterreise nelle regioni del candore assoluto, ma improvvisamente ecco la seconda strofa con un tema, se non l'avessimo collegata, quando ascolterete l'intero, qui c'è una specie di shock al passaggio della seconda. Ascoltiamo la seconda strofa. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. In quali elementi si contrappone violentemente tutto ciò che nella prima strofa era, a parte il cambio di modo, perché la prima strofa era in maggiore e la seconda è minore, ma tutto ciò che era legato, dolce, terzinante, quel unzazza, unzazza, tantam, pipam, pim, pim, para della prima strofa, qua è accordo staccato, perché gli accordi sono così. Ma soprattutto c'è questo secondo oggetto terribile, questo che viene trasposto varie volte, sempre duro. La terza volta addirittura nel grave è un pugno la tastiera. È evidente riferimento diretto al gracchiare dei corvi, ma lasciamo perdere l'eventuale descrittivismo. Quello che importa è la contrapposizione violenta, il risvegliarsi di colpo dal sogno di quella primavera, con questa articolazione staccata, con queste armonie, tra l'altro questa armonia, questa... Chissà chi di voi ha ascoltato un po' di lezioni fa Der Doppelgänger, era la deformazione che progressivamente dava un certo accordo di settima di dominante, che veniva variato così, con questo tritono, che è estremamente duro e che qui diventa ancora più duro, soprattutto quando va nel grave. Contrapposizione è evidentemente violenta e senza possibilità di mediazione, e invece arriva con la terza strofa la mediazione. Ascoltiamola. Doch an den Fensterscheiben wer malte die Blätter da? Doch an den Fenster Scheiben, wer malte die Blätter da? Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah, der Blumen im Innanzitutto è cambiata addirittura la logica. La seconda strofa era indicata come schnell, veloce, la terza è langsam, cioè lento. Siamo tornati in modo maggiore, ma soprattutto c'è un'articolazione da corale, sembra un corale, non dico bacchiano, beh in certi usi di rivolti potrei anche dire che è bacchiano. Se io mettessi in forma di accordo quello che avete sentito, da qui, e faccio la voce, con questo parallelismo tra la voce superiore e la voce del basso. Evidentemente siamo entrati nel clima di una sorta di solenne nostalgia, l'illusione, la forza dell'illusione, la capacità di illudersi, ma di sapere che è un'illusione eppure di illudersi che sia vera. Questa solennità da corale è la salvezza di questo Lied, la mediazione tra la bellezza della primavera sognata o ricordata e la durezza di questo inverno. Possiamo arrivare così all'ascolto integrale di Frühlingstraum. La forma globale che Schubert dà, come forse a questo punto si è capito, enfatizza queste simmetrie delle strofe, cioè quindi il Lied è fatto di tre elementi che si ripetono due volte proprio per la serie ABC, ABC e senza alcuna variante, esattamente a sottolineare e a enfatizzare le simmetrie testuali di cui ho fino adesso parlato. Von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Ich träumte von Lieb um Liebe, von einer schönen Maid, von Herzen und von Küssen, von Wonne und Seligkeit, von Wonne und Seligkeit. Und als die Hähne krähten, da ward mein Herz wach, nun sitz ich hier alleine und denke dem Traume nach. Nun sitz ich hier alleine und denke dem Traume nach. Die Augen schließ ich wieder, noch schläft das Herz so warm, die Augen schließ ich wieder, noch schlägt das Herz so warm. Wann grünt ihr Blätter am Fenster? Wann halt ich mein Liebchen im Arm. Wann halt ich mein Liebchen im Arm? E dall'ascolto meraviglioso di Frühlingstraum, di cui vorrei far notare che all'ultimo istante il lead in la maggiore chiude con un accordo in la minore, perché alla domanda quando stringerò tra le braccia il mio amore la risposta è mai, e quindi questo la, questo solo la che c'era, si chiude senza accordo, si chiude sull'accordo in la minore. Da questo passiamo all'ultimo dei leader della Winterreise, il numero 24, Der Leiermann. Questo, io a parlarne adesso farò fatica a trattenere una sorta di emozione estrema. Facciamo in fretta. Der Leiermann, il suonatore di L'uomo dell'organetto. Vi leggo direttamente il testo e così capiremo di che si tratta. Al limitare del paese c'è un uomo con l'organetto. Con le dita indurite gira la manovella, scalzo, sul ghiaccio vacilla qua e là, il piattello resta sempre vuoto. Nessuno lo ascolta, nessuno lo vede, e ringhiano i cani intorno al vecchio. Indifferente a tutto, lui gira, gira, l'organetto mai non tace. Vecchio misterioso, e se venissi con te, accompagneresti i miei canti col tuo organetto? È un testo un po' da brivido, da pelle d'oca. Questo lead è un archetipo spirituale, è il simbolo dello svuotamento totale irrevocabile. Non c'è nulla che non sia svuotato irrevocabile. Il vecchio è solo, nessuno lo ascolta, nessuno lo vede, persino i cani gli ringhiano, ma lui è indifferente, quindi il vuoto è reciproco, nessuno lo ascolta ma lui è indifferente a tutto. Eppure è l'unica presenza umana che il viandante Schubert incontra nel suo viaggio. E a questo punto mi viene da fare un'osservazione, io non so se è vero questo, ma mi piace molto pensare che sia così. Se ascoltate l'ultima strofa, gli ultimi due versi, vecchio misterioso, e se venissi con te accompagneresti i miei canti col tuo organetto, viene da pensare che questo lead sia la fine e l'inizio di tutto. E se fosse che la Winterreise fossero i canti accompagnati dal vecchio, se, come succede a volte al cinema, alla fine si giunge a scoprire l'inizio, e cioè che questi sono canti accompagnati in questo modo, è un'ipotesi, non so se sia vera, però trovo che sia un'ipotesi meravigliosa. Qual è la visione musicale che dà Schubert a questo vuoto? Bene, innanzitutto c'è una quinta vuota, e sottolineo l'aggettivo vuoto, per la precisione fatta con questo mi diesis che appoggia il fa diesis, come succede nella musica popolare. Questo è come il bordone fatto da una ghironda o dalle corde vuote o da una cornamusa, no? Che poi diventa solo così. Vi dirò che tutte le 61 battute di questo lead hanno alla mano sinistra soltanto queste due note, e tutto il resto è una sequenza melodica circolare come la manovella dell'organetto, che continua a ripiegarsi su di sé, cioè faccio notare quella piccola pausa, come un singhiozzo, come se la manovella avesse uno scatto, e questo appoggio a un accordo di dominante che dovrebbe essere, ma che è appoggiato a una tonica, cioè anche l'armonia è indifferente, nulla si schioda più da questa quinta vuota, e non c'è altro che questa tonica eterna e questa dominante che cerca di scalfirla ma che non ce la fa. La seconda frase è il lead praticamente non avrà altro, e sarà un'alternanza tra la voce e quando canta la voce, quando c'è la frase vocale, il pianoforte si riduce al vuoto totale, c'è solo una mano sinistra che fa questo, e in alternanza alla voce l'organetto risponde. Seconda frase, eccetera. C'è solo un punto in cui qualcosa cambia, e sono le ultime otto battute. 9 con la corona finale. E più volte in altri leader ho fatto notare che ogni tanto questi testi vanno in discorso diretto. In questo caso gli ultimi due versi sono un discorso diretto, cioè si rivolge al vecchio e dice: vecchio misterioso, se venissi con te. Qua il modo di cantare cambia, entra un'altra sequenza che diventa un vero recitativo e anche l'organetto si inceppa, forse il vecchio sta ascoltando. Ascoltiamo le ultime battute. Wunderlicher Altar, soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deine Leier drehen? Voi pensate che questo finale, che questo silenzio finale, la tonalità diversa si riferisce al fatto che ognuno canti il leader in toni che vuole, che questo pianissimo, non ho detto che tutto il leader in pianissimo, meno un attimo di increspatura su una domanda a un certo punto, che questo finale così immobile, così silenzioso, pone fine a un ciclo di 24 leader. Non è la fine di un leader, è la fine di un viaggio che è durato 70 minuti, grosso modo, nel totale ripiegamento su di sé. Dirò soltanto che la Winterreise, questo ciclo che così finisce, non è da meno della Cappella Sistina, non è da meno della Divina Commedia, non è da meno della Recherche di Proust, cioè non è un ciclo di leader, è un viaggio nell'uomo, è un viaggio drammatico, a volte tragico, o addirittura al di là della tragicità, perché siamo nel silenzio che non ha più riscatto possibile, ma che ha un vero grande riscatto, che è il canto, il melos straordinario di Schubert e la sua capacità straordinaria di costruire forme e armonie a partire da questi testi. Vediamo se ci sta l'ascolto integrale di questo lead finale, altrimenti vi rimando al sito di Radio 3 per il suo ascolto. Grazie e alla prossima volta. Steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was kann. Barfuß auf dem Eise wankt hin und her. Sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren den alten Mann. Und lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Thank you. dir gehn. Willst du meine Lieden deine Leier drehn? Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare le composizioni argomento della lezione dal sito di Radio 3 cliccando su Classica Radio 3.